noche en la mía. Soleari heri como ley. Tu te encantado lo sai. Senza di lei che farei. Storia che non so se può riprenderà con lei. È una speranza che ho in più, perché anche non riesco a cancellare. Così mi fa male rinunciare a lei. Male, sentirsi soli anche se